Salva Danaio di Deborah Rosciani. Bentrovati a Salva Danaio, giornata pessima per quello che riguarda la borsa, vi abbiamo già dato qualche anticipazione sulle ragioni che stanno provocando questa nuova vigorosa discesa dei listini azionari, adesso vi spiegheremo anche nel dettaglio e nel pratico perché questa misura tedesca di limitare, anzi impedire le vendite allo scoperto su determinati strumenti finanziari sta provocando appunto questo nuovo ribasso che peraltro si riflette anche nel rapporto euro-dollaro, perché l'euro continua a testare nuovi minimi da 4 anni a questa parte sul biglietto verde, 1,2189 il rapporto di cambio in questo momento. Però vi dico anche il tema che poi approfondiremo a Salva Danaio perché lo stanno aspettando in molti. E allora, 2 giorni fa a Roma un'altra visita del ministro dell'economia argentino Amado Boudou insieme al sottosegretario alle finanze Hernán Lorenzino, la seconda visita in 2 settimane. Le motivazioni di questo viaggio, almeno molti di voi le conoscono molto bene, il governo argentino sta facendo conoscere i dettagli dell'offerta di scambio proposta ai detentori di vecchi titoli argentini, quelli della famosa e ormai migliaia di volte raccontata, almeno da parte nostra, bancarotta del 2001 del governo di Buenos Aires. Ci sono circa 18 miliardi di vecchie obbligazioni ancora in circolazione e circa 4 miliardi sono ancora in mano a famiglie italiane, c'è chi dice 2, c'è chi dice 4,5, però ce ne sono ancora tante di obbligazioni in mano a famiglie italiane, a quelle che almeno non aderirono alla prima proposta di scambio, quella del 2005. A distanza di 5 anni, lasso di tempo in cui l'Argentina non ha potuto fare ricorsi ai mercati internazionali per via di questa situazione pregressa ma risolta, il paese ripropone a migliaia di investitori sparsi in tutto il mondo di chiudere una volta per tutte questa vecchia partita con una nuova offerta che è molto simile alla prima, e l'atteggiamento è quello del prendere o lasciare. Le lettere delle banche con le condizioni della proposta stanno giungendo a casa degli interessati proprio in questi giorni. I tempi sono strettissimi perché teoricamente c'è tempo fino al 7 giugno per aderire o meno all'offerta del governo argentino, ma in realtà, da quello che ci risulta, io ho anche una lettera di un investitore in mano, in realtà l'adesione o meno deve essere comunicata entro qualche giorno prima del 7 giugno, entro il 21 maggio, entro 2 giorni, per cui immaginate in che dilemma si possono trovare in molti. Allora noi stamattina abbiamo invitato di nuovo il presidente della TFA Argentina, che ha promesso anche una comunicazione riservata a tutti coloro che hanno aderito alle iniziative della TFA in questi anni. Presidente Stock, buongiorno, intanto grazie per essere ritornato con noi. Presidente Stock, mi sente? Sì, la sento benissimo. Benissimo, grazie. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Buongiorno, io le chiedo solamente un minuto di pazienza perché adesso devo collegarmi con Nicola Pegoraro, direttore finanza e intermediazione di Banca Carige, perché invece con lui faccio un paio di minuti anche di mercato finanziario, perché qua è una nuova giornata di preoccupazione per chi ci ascolta, per gli investitori di borsa. E allora Pegoraro, buongiorno e grazie anche a lei di essere con noi. Buongiorno a tutti. Abbiamo un ribasso di 2,5 punti a Parigi, Francoforte e Londra, di 3,5 punti a Milano. La Germania dice, anzi lo fa la BaFin, l'autorità tedesca di sorveglianza del settore finanziario, da oggi fino al 31 marzo del 2011 chiudiamo, impediamo, limitiamo, fermiamo le vendite allo scoperto su determinati prodotti finanziari, e sono le azioni delle 10 principali società finanziarie nazionali, le 10 principali banche. Lo fa sui bond governativi denominati in euro, lo fa sui CDS, sui credit default swap, e qua magari in questo ambito di investimento cerchiamo di disinteressarcene perché non è un settore ad appannaggio di piccoli investitori, ma perché questa misura ha scompaginato così tanto stamattina gli investitori in tutta Europa, Pegoraro? Ma quello che alcuni temono è che sia una misura un po' straordinaria, in parte dettata da sfiducia verso quello che sta succedendo sul mercato, e che possa essere, diciamo, una mossa più mirante a tra virgolette nascondere realtà più che a risolvere, diciamo, i problemi nella loro essenza. Questo è quello, evidentemente, da come si sta comportando il mercato, questo è quello che pensa il mercato. Personalmente non è quello che ritiene che lei, penso io, ma evidentemente quella reazione è forte, c'è. Diciamo anche che l'area euro è vittima anche di alcuni pregiudizi Basta leggere la stampa americana o girare per i siti americani per trovare veramente una totale sfiducia verso quello che sta succedendo in Europa. Si continua ad avere l'impressione di un'Europa ostaggio sempre di più di Angela Merkel, anche perché questa mattina è stato di nuovo auspicato, almeno su misure di questo tipo, un intervento coordinato a livello europeo. Lo ha detto il commissario europeo al mercato interno Michel Barnier: è importante che gli stati membri agiscano insieme. Di fatto invece la Germania parte da sola, la Merkel parla in libertà e i mercati vanno a picco. Ci spiega in pochi secondi, se ce la fa Pegoraro, il motivo per cui soprattutto Piazza Affari è così tanto più penalizzata delle altre borse europee? Abbiamo visto che questa misura di impedire le vendite allo scoperto riguarda 10 banche tedesche. Il motivo è per il fatto che Milano, essendo composta da tanti titoli del settore bancario, sono questi più colpiti dalle vendite questa mattina, quindi Milano più penalizzata anche per questo effetto domino sul settore? Ma l'Italia, sappiamo appunto, l'indice ha una presenza molto forte di banche. Soprattutto siamo comunque in un modo o nell'altro uno dei paesi più sotto osservazione, per cui è normale che il nostro indice, diciamo, cumuli questa doppia rischiosità oggi come oggi, che è quella di essere appunto un indice italiano e in più di avere una grande rappresentanza di banche. Ecco, no, sicuramente questo è quello che motiva, ecco, la perdita. I finanziari sono tra i settori peggiori in tutta Europa, insieme anche alle risorse di base, ma i finanziari sono... Sì, le materie prime scendono un po' tutto, anche sì, per questo movimento sulle valute. Senta, io tra l'altro devo dare subito la parola a Nicola Stock, perché dobbiamo spiegare tante cose. Ho poco tempo per tornare su questo tema caldo per molti investitori, però vorrei anche spiegare per i curiosi che cosa vuol dire una vendita allo scoperto e il fatto di limitarla. Ammettiamo che io ho un titolo che si chiama Nicola Pegoraro, che cosa non posso fare a questo punto se questo titolo fosse oggetto di un impedimento di questo genere? Pegoraro, me lo spieghi lei? Ho denominato un titolo con il suo nome. L'intervento tedesco riguarda le cosiddette vendite allo scoperto, cioè se lei ha una posizione in un titolo di Stato italiano in Germania, oggi lei può comprare protezione sull'Italia, oppure in qualche modo cercare di coprirsi il rischio che già si trova in pancia. Questo, cioè, comprando anche un titolo italiano e contestualmente un CDS. Questo è possibile anche dopo la misura, diciamo, recente, sì, tedesca. Quello che invece non può fare è, non avendo il titolo in posizione, diciamo, o venderlo allo scoperto o, attraverso ad esempio l'uso di questi derivati di credito, prendere una posizione equivalente alla vendita allo scoperto, ad esempio comprando protezione su una cosa che lei non ha, cioè in un certo senso andando a guadagnare qualora qualità del titolo... Che sono operazioni che tradizionalmente si fanno fra investitori professionali, non tra piccoli naturalmente, si possono anche fare naturalmente, e però insomma di fatto poi questo provvedimento, che riguarda più che altro un limite nell'atteggiamento di investitori che hanno una forte propensione speculativa, di fatto poi gli effetti si catapultano anche sui piccoli investitori. Basti vedere appunto gli effetti della borsa di oggi. Su questi temi tornerà stasera Sebastiano Barisoni con Focus Economia, anche noi domani mattina a Soldi e Dintorni. Pegoraro, intanto buona giornata, speriamo si concluda un po' meglio di come è iniziata. Presto. Arrivederci. E noi torniamo sui Tango Bond. I risparmiatori italiani che detengono bond argentini hanno ancora qualche giorno di tempo per decidere se aderire o meno alla nuova proposta di scambio lanciata da Buenos Aires lo scorso 3 maggio. Una sorta di prendere o lasciare a 5 anni di distanza dalla prima offerta, che tra l'altro assomiglia molto all'attuale. In particolare, il nuovo scambio prevede due possibili opzioni. Nel primo caso, discount, si ricevono titoli con scadenza 2033, con un valore nominale pari al 33,7% di quello delle vecchie obbligazioni e un tasso di interesse del 7,82% annuo. Il taglio rispetto ai vecchi bond è quindi del 66,3%. Nel secondo caso, par, si prendono titoli per un valore nominale pari a quello dei vecchi bond, ma con scadenza più lunga, 2038, e un tasso di interesse più basso. In entrambi i casi vengono poi riconosciuti una parte di interessi non pagati dal 2001. Per aderire, i circa 180.000 risparmiatori italiani rappresentati dalla Task Force Argentina, l'associazione messa in piedi dalle banche italiane, dovranno però ritirare il mandato, cioè in pratica rinunciare a nuove cause contro il governo di Buenos Aires. Un segnale netto che di fatto rispecchia la volontà del governo argentino. Chiudere una volta per tutte il contenzioso con gli investitori e poter tornare a finanziarsi sui mercati internazionali dei bond. 800 24 00 24, il numero verde disponibile per gli ascoltatori che vogliono intervenire questa mattina. Speriamo di poterne cogliere qualcuno. Dottor Stock, ci ritroviamo qui a parlare di questo argomento. E allora, l'offerta argentina. Io stamattina vorrei evitare, lo dico agli ascoltatori che magari sono pronti anche con considerazioni di questo genere, tutte le polemiche politiche, tutte le considerazioni sulla convenienza o meno di questa offerta argentina, che sia fortemente penalizzante, lo abbiamo scoperto. Come scoprire l'acqua calda, lo sappiamo. Il tema è capire se vi siete stancati di portare avanti, di trascinarvi questa situazione dal 2001 e quindi la volete chiudere aderendo a questa offerta che per molti è, lo dice anche il governo argentino, prendere o lasciare, oppure se volete continuare nella vostra battaglia con altre vie. E quindi cerchiamo di capire la TFA non tanto cosa sta suggerendo di fare, perché non suggerisce un bel niente, e dice chiaramente: lasciamo piena libertà ad investitore di muoversi come crede. Dottor Stock, non è proprio così. Neanche? Beh no, perché io ho sotto il vostro documento sì, sul piano sì, di ristrutturazione la TFA sì, non assume alcuna responsabilità in ordine alle scelte che saranno assunte in piena libertà dall'investitore. Però se lei permette, se mi dà un momento di tempo, intanto... Sì, già, tra l'altro dobbiamo... Sì, fra un po' già dobbiamo andare in pausa, oggi è volato via. Mi dica. Intanto, come lo stesso governo argentino ha detto, con una legge è peggiorativa del 2005 rispetto a quella del 2005, quindi questo è un dato di fatto. Noi abbiamo messo anche per gli obbligazionisti che non sono così addentro nel nostro sito un esempio di un 10.000 euro, chi ha un 10.000 euro che cosa va a avere se aderisce con un par bond e quello che potrebbe ottenere. Quindi sul nostro sito www.tfargentina.it può vedere un esempio pratico. La cosa che vorrei però sottolineare è che c'è un plafond fino a 40.000 euro, sì, se parliamo di euro, e un plafond globale per tutto il mondo di 2 miliardi di euro per i par bonds, e quindi se consideriamo che sono oltre 18 miliardi di titoli da swappare, si vede subito che è una cifra piuttosto contingentata rispetto agli eventuali obbligazionisti retail che vorressero accedere a all'obbligazione questo, par, sì, a par, a quella alla pari. Perché, e noi abbiamo fatto anche un esempio, se ci fossero adesioni di 4 o 6 miliardi, che cosa andrebbero a ricevere come par, ma certamente anche in discount, perché come ripeto il plafond è limitato. Il termine, come si sa, è il 7 giugno e naturalmente il termine finale per il ripagamento è 23 anni per i discount e 28 anni per i par. Non è che proprio gli interessi vengono ripagati dal 2001, perché questo non è corretto, ma dal 2003, come era anche la precedente offerta. Le banche dovrebbero aver informato la propria clientela, ma sì, la TFA lo sta facendo, lo ha messo sul proprio sito i principali termini dell'offerta e le sue valutazioni, cosa che ha fatto anche con le sue associate. Abbiamo anche dato un'informativa generica sul ricorso arbitrale ICSID, mentre, come lei giustamente diceva, gli obbligazionisti che hanno conferito mandato alla TFA, quindi i ricorrenti per il ricorso arbitrale ICSID, riceveranno entro questa settimana la nota informativa ed una lettera dei propri avvocati, cioè gli avvocati americani e degli italiani, che forniscono delle informazioni con maggiori dettagli circa il procedimento ICSID. Mi preme di leggerla con molta attenzione, questa lettera anche, prima di prendere le decisioni sull'adesione o meno dell'offerta, per fare una ponderata comparazione. E infatti, no, che sarà molto duro, però ecco, io le volevo poi proporre il caso di un ascoltatore che ci ha scritto, ci ha mandato anche la lettera della sua banca scannerizzata, che praticamente la banca gli chiede molto chiaramente di dare una risposta entro il 21 maggio, cioè entro dopodomani, e tant'è vero che questo ascoltatore si chiede se sia legalmente possibile, visto che l'operazione di adesione si chiude, secondo quanto ha comunicato il governo argentino, il 7 giugno. Io ho aderito nel 2005 e anche le persone che hanno aderito alla prima offerta possono adesso ricambiare i titoli. Sabato mi trovo col promotore per vedere se aderire alla nuova offerta. Allora, ecco, per esempio, questa persona si vede sabato col promotore e deciderà la prossima settimana. Quest'altro ascoltatore di cui ho la lettera sotto, la banca gli chiede entro il 21, entro due giorni, di dargli una risposta. Dove sta la verità? Lei che rappresenta comunque le banche. Insomma, ma viaggiano in ordine sparso, non avete dato un'indicazione di massima su come muoversi con i tempi, con la propria clientela? Dunque, prima di tutto io non rappresento le banche, sarei onorato, ma non sono il presidente dell'ABI. No, vabbè, quindi, la TFA, no, però, no, vabbè. Io posso rappresentare le banche che sono a me associate e quindi il termine come è dell'offerta del 7 giugno, quindi l'ascoltatore dovrà far capire questo alla sua banca, non so chi sia, che il termine è 7 giugno, quindi sono questioni organizzative di quella banca che vuole anticipare così il termine. Per quanto riguarda invece il primo, in cui, se ho capito bene, è un aderente alla prima offerta, sì, quindi del 2005, e adesso potendo eventualmente ricorrere a questa seconda, però non vedo quali vantaggi, perché è peggiorativa rispetto a quella precedente, deve pagare un 4 per 1000 di commissioni alle banche. Alle banche, esatto, c'è anche questo aspetto. E poi naturalmente, se lui ha preso delle discount che vuole girare ai paro, vuol tentare di prendere migliorativo. Se no non vedo, tant'è vero che lo stesso governo argentino lo ha fatto perché lo deve fare, perché nella precedente offerta era indicato questo, ma certamente ha detto pure che non vede chi potrà aderire perché è peggiorativa. No, tra l'altro c'è anche un'altra informazione fuorviante che credo che questo promotore abbia dato a questa persona che si chiama Valerio. Il promotore gli avrebbe detto che se non aderisce adesso, praticamente quelle del 2005, le obbligazioni non avranno più mercato. Io non capisco anche non c'entra proprio assolutamente niente, a pieno nulla. Titolo di godimento appunto dei titoli che ha ricevuto l'altra volta. Mentre invece, prego. Sì, prego. No, io volevo dire che chi invece volesse aderire in questa offerta, noi abbiamo approntato, proprio perché sulle revoche che prima gli aderenti all'ICSID, i ricorrenti all'ICSID, dovevano aspettare 15 giorni prima che i titoli fossero liberati, noi per non essere poi tacciati con questi 15 giorni di non farli aderire alla nuova offerta, abbiamo fatto un sistema con le banche. Una procedura accelerata, come l'ha chiamata Laura Serafini del Sole. Chi vuole aderire sa che non deve aspettare 15 giorni, ma certo non è una spinta per farli aderire, è solo una questione organizzativa. Perché lei ha fatto questa precisazione? Perché il governo argentino ha detto: attenzione, se volete cogliere questa occasione e aderire a questa seconda offerta, dovete abbandonare la task force argentina, il ricorso all'ICSID, ma anche ogni altra iniziativa appunto di natura legale, quindi prendere o lasciare. Anche se poi sull'azione legale verso la banca presso la quale si è fatta l'investimento, secondo le associazioni dei consumatori, l'adesione a questa seconda offerta non preclude anche questa opzione. Ma per adesso lasciamo da parte questo. Dottor Stock, le faccio sentire un paio di domande. Alessandro da Modena non vuole neanche sentir parlare di questa offerta del governo argentino. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, senta, questo è un mio investimento. Insieme a lei ci sono in tanti, volevo anche dirlo. Sì. Io la mia domanda è questa: io non aderirò a questo personale all'offerta pubblica di scambio, né quella vecchia né questa. Io chiedo a dottor Stock, e quando c'è lui mi calamito sempre su Radio 24, chiedo. Sono giovane, potrei attendere e potrei legarmi all'Argentina, non lo faccio. Con il ricorso all'ICSID, che percentuale eventualmente noi potremmo riprendere del capitale? Tanto lei dice, insomma, per cominciare a prendere qualcosa con questi titoli che hanno una scadenza trentennale, tanto vale aspettare il ricorso all'ICSID, che dottor Stock spero che non abbia gli stessi tempi, ma in ogni caso ha fatto una domanda che le sono grato. Perché se lei è un ricorrente all'ICSID, come dicevo prima, lei riceverà una lettera degli avvocati, perché c'è un confidentiality order del tribunale arbitrale, che non si possono dare delle informazioni diciamo su quello che sta succedendo e lo stato dell'arte. Purtroppo c'è questo ordine, però si possono inviare ai ricorrenti all'ICSID le informazioni anche riservate, naturalmente sono informazioni dove ci sarà scritto ben chiaro che sono informazioni riservate che non possono essere distribuite. E perché l'abbiamo fatto? Perché vogliamo che si veda l'offerta attuale con le avvertenze anche della Consob, io sottolineo questo, che si devono vedere anche le avvertenze che ha autorizzato la Consob, in cui ci sono tanti punti negativi che si devono leggere, vuoi per chi aderisce, vuoi per chi non aderisce. Dottor So, che questa informativa arriverà entro il 7 giugno, lei è in grado di poterla assicurare alle persone che aspettano? Finare a organizzare più di 100.000 lettere da inviare, quello che ha comportato e il costo. Però lo abbiamo voluto fare appunto perché ci sia la comparazione tra la nuova offerta e lo stato dell'arte dell'ICSID, affinché coloro che hanno dovuto aspettare, ma le dirò che l'ICSID non è partita 5 anni fa, è partita 3 anni fa, e che nel durante c'è stata purtroppo la morte dell'arbitro che ci ha fatto ritardare un anno. Infatti. Però su questa lettera, per questo sottolineo, da leggersela con cura, perché uno può fare la comparazione attendo ancora un periodo per avere poi il giudizio finale sul ricorso ICSID, o non voglio attendere e andare naturalmente sull'offerta. Ecco, abbiamo voluto fare questa comparazione che sia veramente fatta con la più grossa meticolosità. No, io su questo punto vorrei essere anche molto precisa, le sono grata di averlo precisato, le lettere dell'ICSID devono arrivare, stanno arrivando, per cui mi sembra del tutto scorretto che qualche banca chieda ai clienti l'adesione o meno all'offerta del governo argentino entro dopodomani. Almeno aspettate la fine della prossima settimana, ma io dico che devono aspettare almeno fino al 7 giugno, quindi non capisco anche questo atteggiamento di voler far sottoscrivere immediatamente o meno l'offerta che appunto Buenos Aires ha fatto, questa seconda offerta. Allora faccio fare la domanda a Fausto da Milano e gli rispondiamo dopo i suggerimenti perché in viaggio. Fausto, rapidissimo telegrafico, grazie. Rapidamente. Sì. Mi avete parzialmente già risposto, sì. Nel senso, io ho ricevuto dalla mia banca, avendo sottoscritto i Tango Bond nel passato, ho già aderito all'offerta 2005. Allora mi meraviglio che la banca mi rimandi o mi chieda di partecipare a questa nuova offerta sapendo che le condizioni oggi sono peggiorative. Questa è la mia domanda, alla quale avete già ampiamente risposto, effettivamente. Fausto, va bene, meglio così. La ringrazio molto. Volevo sentire Mario da Rimini rapidamente perché ci pone una domanda che ci interessa ai fini anche dei termini prescrittivi. Mario, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo sapere proprio questo aspetto della prescrizione dal dottor Stock, perché non è stato mai chiarito né adesso né negli anni precedenti. Io ho un titolo argentino scaduto nel 2008. Volevo sapere se naturalmente vado avanti con l'azione dell'ICSID, sì, e con i tempi che ci sono, che andremo avanti per 4, 5, 8 anni, qual è il termine prescrizionale dal 2008? Perché l'Argentina non possa dire questo titolo non avete più diritto a chiedere niente. Costo legale. Mario, grazie. Dottor Stock, so che su questi punti voi ci siete andati più spesso, c'è anche nel vostro ultimo documento una precisazione su questo. Dunque, sulla prescrizione noi abbiamo voluto, e l'abbiamo messo anche, a parte l'ICSID, noi abbiamo voluto fare anche su 7 giurisdizioni dove i titoli sono stati emessi, quindi soprattutto Germania, Stati Uniti, poi Svizzera, Spagna, eccetera, abbiamo fatto un'azione perché questi titoli si interrompa la prescrizione. Quindi se lei c'ha questo titolo, noi l'abbiamo cominciato a fare dall'anno scorso, e quindi lei c'ha altri 10 anni da poter attendere. Però noi nel fare questo ricorso all'ICSID abbiamo fatto anche 2 giudizi sul tribunale di New York, vuoi per i titoli tedeschi, vuoi per i titoli sotto giurisdizione inglese ed americana, per interrompere la prescrizione. È stata accettata questo dal tribunale americano e lo abbiamo messo in sospensiva in attesa che il ricorso ICSID venga definito. Se dovesse anche andare male, spero di no proprio, il ricorso ICSID, abbiamo sempre questi 2 giudizi pendenti presso il tribunale di New York. Allora, anche qui insomma aspetti un po' complessi, ma che in ogni caso io credo, dottor Stock, debbano salvaguardare comunque le persone che hanno il timore della prescrizione. Luca da Venezia. Sì, buongiorno. Allora, sì, volevo fare una domanda e anche un appunto al dottor Stock. Mm. Nel senso, se uno vuole aderire deve mandare questa revoca di mandato alla TFA Argentina. Io ho consultato la mia banca e la mia banca ancora non mi rende disponibile questo modulo di revoca mandato. Lo chiedo al dottor Stock come mai e perché non è possibile mettere a disposizione di tutti coloro che volessero aderire nel sito della TFA. Ah, beh, le Luca, spiego subito, sì, le spiego subito, perché la TFA non è che ha i titoli la TFA. È il suo rapporto bancario che ce l'ha depositati presso di essa, quindi è lei che, se desidera partecipare a questa offerta, la banca dovrebbe farle firmare questo modulo che è poi anche nel prospetto informativo dell'Argentina e nel contempo, per farvi non perdere tempo, la revoca delle disposizioni del mandato che ha dettato alla TFA. Quindi la banca ha questo modulo sia di adesione, perché ce l'ha proprio nel prospetto informativo dell'Argentina, sia la nostra revoca, ce l'ha già, noi l'abbiamo già fatto appunto per evitare lungaggini e dispersione di tempo. Mm. Allora, le pongo 3-4 minuti di tempo per parlare di tutto il mondo, speriamo di farcela. Ci sono molti ascoltatori che ci raccontano, dottor Stock, del fatto che hanno obbligazioni argentine magari ricevute in eredità. Ci sono 2-3 ascoltatori minimo nella medesima situazione. La informo subito, se lei permette. Sì, certo. Dunque, se hanno ricevuto in eredità queste obbligazioni e intendono o monetizzarle oppure aspettare questo ricorso dell'ICSID, devono recarsi presso la loro banca e far vedere che sono eredi con un certificato di eredità, vuoi per vendere queste azioni, vuoi per partecipare a questa nuova offerta o vuoi per continuare per conto dei decuius l'azione arbitrale a Washington. Allora, poi c'è un'ascoltatrice alla quale sono molto affezionata, con la quale mi scrivo spesso, è Rosanna, che ci scrive: Deborah, l'Argentina ha cause perse in ICSID da tempo, non paga e dice che non pagherà. Puoi chiedere a Stock la prescrizione per italo-argentini, persone che non hanno potuto aderire alla vostra iniziativa a Washington, dottor Stock. E questo allora è un maggiore problema, purtroppo, perché se devono vedere la prescrizione nei confronti dell'Argentina, dovranno fare, bisogna vedere prima di tutto sotto quale giurisdizione. Se è una giurisdizione tedesca, dovrebbero fare un ricorso presso il tribunale tedesco per interrompere la prescrizione, cosa che alcuni italiani hanno fatto sul tribunale di Francoforte e hanno anche vinto delle sentenze. Oppure vedere se il titolo sta nella class action a New York, perché ci sono delle class action che si sono costituite, quindi vedere se questi titoli sono nella class action di New York. Se la signora vuole, ancorché non abbia aderito, una mano gliela diamo. Benissimo, allora possiamo io credo che però l'abbia sentita anche più volte, conoscendola, so che avrà battuto tutte le strade possibili, oltre a aver organizzato anche insieme a tanti altri la nuova manifestazione di contestazione al ministro delle finanze argentino 2 giorni fa a Roma. Allora, io non saprei da quale aspetto ritornare a chiacchierare con lei. C'è Franca da Luca, sentiamo che cosa ci dice. Sì, dottor Stocco, poi la lascio concludere. Sì, Franca, era sull'eredità, però credo di aver chiarito poco fa. Esattamente, volevo appunto capire se, essendo che la persona che mi ha lasciato in eredità probabilmente non ha fatto niente, non ha sicuramente aderito la prima volta, sì, non so se bisogna fare qualcosa di pratico. La banca non le ha, non l'ha chiamata, ovviamente, non le ha chiamato e come dire, puntano al fatto che io aderisco. Ho capito. Non sono soddisfatta, dico, devo fare qualche altra mossa io per portare avanti un ricorso, un qualcosa, oppure è tutto automatico. Cioè, quindi le hanno un po' sollecitato, invitata a fare l'adesione, Franca. Lei ce lo può testimoniare. No, perché so che su questo punto è molto delicato per il dottor Stock, perché insomma, chiaro che le banche vorrebbero togliersi questa zavorra, poi magari non lo ammetteranno mai, dottor Stock, ma è anche, come dire, intuibile facilmente, poi non lo possiamo ammettere. Sì, ma Bisogna vedere poi i ricorsi che potrebbero venire contro di loro, se ci sono, però insomma questo è un qualcosa che la signora dovrebbe vedere, però se colui o colei che gli ha lasciato l'eredità abbia fatto ricorso o meno all'ICSI. Non credo. Ah beh, no, dunque non ha aderito all'offerta del 2005, quindi bisognerebbe, ma in ogni caso la banca dovrebbe saperlo. Sì, oppure se magari la banca non è molto cooperativa e lei ci può dimostrare che è l'erede, noi potremo vedere poi tra i nostri, la nostra documentazione. Perfetto, se c'è il papà di questa della signora Franca da Lucca. Sì. 30 secondi di tempo, dottor Stock, è volato. Senta, cosa dobbiamo dire? È chiaro che l'offerta che l'Argentina ha fatto, l'ultimo treno, carta straccia, questo l'abbiamo sentito anche nel 2005, come lei ricorderà, non è divenuta un'altra offerta. L'Argentina purtroppo sta bene, discretamente, a 47 miliardi di riserve, e lo Stato che è stato eletto ultimamente per i suoi cittadini col maggior reddito pro capite dell'intera America Latina, quindi insomma ha rimesso in moto lo stato di emergenza nazionale fino al 2011. Ecco, questo lascia dei grossi punti interrogativi. Lo so che voi volete aggredire bene gli argentini. Sulla volontà di veramente rifondere. 5 secondi, la prossima mossa che dovremo invece sapere dall'ICSID qual è? Se poi riusciremo a chiarire cosa fare con la banca in questi giorni. La prossima mossa con l'ICSID, noi abbiamo avuto l'udienza finale, e qui non dico segreti, tra il 7 e il 14 aprile scorso, io ero presente. Mi pare che è soddisfacente l'esito che c'è stato almeno su questa udienza. Adesso ci saranno ancora due memoriali che verranno presentati entro il 14 di giugno, dopodiché il collegio arbitrale si deve riunire per emettere la sentenza. Abbiamo rubato... Quanto ci vorrà, e questo non posso entrare, però abbiamo fatto grosse richieste al Tribunale Arbitrale. Devo salutarla, dottor Stock, ci ritorneremo su questo argomento, tanto non è finita qua. A domani.